l'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Eccoci qua, ciao Chiara. Ciao Federico, ciao ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a tutti. Allora, parliamo di intelligenza artificiale. In Italia c'è un'associazione italiana per l'intelligenza artificiale che sta facendo diverse attività, anche molto divulgative, poi anche rivolte a pubblici più specializzati. I temi che attraversano l'intelligenza artificiale sono davvero diversissimi, tanti, perché è una di quelle tecnologie che sono pervasive. Per parlare di intelligenza artificiale, ma di un tema specifico, abbiamo qui con noi la professoressa Francesca Alessandra Lisi. Benvenuta. Grazie a voi per questo invito. Un saluto a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici. È ricercatrice del Dipartimento Informatico dell'Università di Bari e appunto fa parte del direttivo dell'Associazione Italiana di cui parlava Federico. Allora, fra le tante cose che state discutendo, lei in particolare si sta concentrando adesso su un tema che può essere definito in modo molto sintetico: le donne, la componente femminile e l'intelligenza artificiale. Per capire l'importanza di questo settore d'analisi, io credo che sarebbe bene che lei ci spiegasse come effettivamente si è già verificato e si sta verificando nei prodotti dell'intelligenza artificiale, cioè un certo programma, un algoritmo che serve a svolgere una certa funzione, per esempio dare alle banche un'indicazione sull'affidabilità di coloro che chiedono dei prestiti. Bene, dentro, all'interno di queste funzioni, si è scoperto che ci sono delle differenze, delle discriminazioni, donne, uomini, ricchi, poveri, bianchi e neri. Ci fa qualche esempio, insomma. Sì, effettivamente il successo di queste applicazioni è stato anche accompagnato dall'osservazione di alcuni fenomeni invece preoccupanti. Mi riferisco in particolare a quei sistemi che utilizzano algoritmi cosiddetti di apprendimento automatico, perché questi sono algoritmi che vengono addestrati su un certo quantitativo di dati. In alcuni casi si parla di grandi mole di dati. E quindi quello che si è osservato è che se i dati che venivano dati in pasto agli algoritmi contenevano al loro interno dei vizi, diciamo così, dei pregiudizi, degli stereotipi che provengono dalla società alla fine, e questi algoritmi non facevano altro che interiorizzare, rafforzare questi pregiudizi e questi stereotipi e quindi produrre dei risultati, delle raccomandazioni che finivano per amplificare quelle che sono appunto le storture esistenti in un certo ambito della società. E parlo ovviamente di pregiudizi legati al genere, ma anche alla razza o ad altre dimensioni che possono dar luogo a discriminazioni. Ricordo per esempio un algoritmo che serve a scegliere delle immagini. Google. Esatto, e quando si metteva dentro un'immagine donne di colore, riusciva a tirar fuori anche dei primi piani di gorilla, per esempio. Questo fenomeno che ha raccontato Federico era ovviamente nelle prime i primi algoritmi di Google. Adesso ovviamente il sistema è molto più raffinato. Beh, in realtà queste applicazioni di riconoscimento facciale, perché stiamo parlando di appunto di riconoscimento facciale, sono state particolarmente oggetto di critiche proprio in questo anno della pandemia, perché si è osservato proprio che questi sistemi avevano delle prestazioni estremamente degradate, come dicevate voi poc'anzi, nel caso di volti femminili di colore. Addirittura si era osservato che questi software riuscivano a migliorare la loro capacità di riconoscimento laddove gli individui indossavano una mascherina bianca. E quindi in questo caso ci sono chiaramente sia dei pregiudizi legati alla dimensione di genere, ma anche a quella di razza. bassa, ecco. Ma una mascherina bianca, sì, lei intende quelle che stiamo indossando praticamente tutti i giorni, le mascherine? Praticamente sì, ah. Tant'è che c'è stato, diciamo, tutte le grandi aziende che avevano sviluppato sistemi di questo genere, di riconoscimento ad esempio per gli accessi, hanno dovuto rapidamente cambiare, insomma, le loro policy e prendere delle decisioni anche drastiche se continuare a investire sulla realizzazione di questi sistemi o meno. Cioè lei ci sta dicendo che questi algoritmi anche adesso, cioè, non sono talmente sofisticati da dare addirittura degli errori proprio, cioè non sono delle piccole imperfezioni, sono degli errori grossi, per cui appunto una persona entra o non entra ad esempio in un edificio, se viene riconosciuta o meno. Esattamente, esattamente. Come ambito applicativo, quello del riconoscimento facciale ha posto, insomma, diversi problemi che sono emersi in tutta la loro significatività proprio in quest'ultimo anno. Una delle aziende produttrici ha deciso proprio di ritirarsi da questo business, da questo mercato, proprio per evitare, insomma, si sono resi conto che era un terreno abbastanza minato. Certo. Si incorreva in errori abbastanza clamorosi. Ecco. Per esempio l'uso che se ne fa anche nella cosiddetta giustizia predittiva. Sì, cioè si è visto che dei programmi che servivano a monitorare certe situazioni collettive difficili hanno poi continuato a dare risultati negativi su un certo tipo di persone, per esempio se erano di colore, nonostante magari quella zona lì sia completamente cambiata. Sì, era sulla predizione della possibilità di recidiva per alcuni individui. Lì diciamo che la componente razziale è, diciamo, gioca un ruolo, ecco, maggiore. Ecco, nelle tante realtà che appunto operano anche nella creazione di questi algoritmi basati sull'intelligenza artificiale, la presenza di donne è bassa, e vabbè, qua non svegliamo nulla di nuovo, però ci sembra di capire che voi che lavorate su questo non volete proporre il classico tema, insomma, delle quote rosa, ma pensate che ad esempio la presenza della sensibilità, diciamo così, della parte femminile possa offrire un nuovo modo di progettare, anche di correggere appunto questi errori? Sì, questo è un problema innanzitutto culturale, che pone anche diversi interrogativi di natura etica, direi, l'impatto sulla società, la scarsa presenza femminile soprattutto nelle nuove generazioni, perché diciamo che io appartengo a una generazione in cui, per esempio, ricordo i tempi dei miei studi universitari, comunque la presenza femminile era nettamente superiore nei corsi di laurea legati, insomma, all'informatica. Sì, informatiche, parlo dell'informatica chiaramente. Però l'idea di avere, diciamo, una componente femminile più alta, secondo voi aiuterebbe e di molto? Beh, certamente, perché in realtà è importante che la maggiore partecipazione delle donne sia nei team di ricerca che nei team di sviluppo delle tecnologie, perché significherebbe garantire già in fase di progettazione, di nascita proprio di nuove idee e poi anche di loro concretizzazioni in tecnologie, garantire appunto il punto di vista di metà della popolazione mondiale alla certo. fine. Va bene, grazie professoressa Lisi, davvero buonissimo lavoro allora. Arrivederci. Federico, cambiamo decisamente argomento. Adesso ti parlo di un olio d'oliva del 79 avanti Cristo. E tu dirai, ma che trovato? Ne sai? Dove l'ho trovato io? Dove l'hanno trovato loro? Diamo il benvenuto a Raffaele Sacchi. Intanto, benvenuto a Darwin. Ciao a tutti, grazie. Lei è docente di tecnologie alimentari al Dipartimento di Agraria della Federico II di Napoli. E sì. Adesso le passo la battata bollente. Ci dovete spiegare intanto dove l'avete trovato, quest'olio d'oliva, che si è anche conservato in una bottiglia. E ci deve raccontare appunto dove, come avete svolto questa indagine. Certo, io sono stato emozionato perché lavoro da 30 anni sulla chimica dell'olio d'oliva, sulla tecnologia, sulla qualità, eccetera. qui al Dipartimento di Agraria. Quando nell'ambito di un progetto di ricerca che abbiamo in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale, nella caratterizzazione di tutti i reperti organici, nel mio laboratorio è arrivato questo frammento di materiale ceroso che veniva fuori da questa bellissima bottiglia che avevo già visto e conosciuto, siamo stati eccitatissimi, abbiamo cominciato a fare tutte le analisi e effettivamente poi è risultato fuori che è un olio di oliva, la sua composizione, i suoi steroli, i suoi acidi grassi ossidatissimi, ma erano quelli, e soprattutto abbiamo cominciato con i colleghi del Dipartimento di Agrario, in particolare col professor Di Pasquale e la dottoressa D'Auria, a studiare la storia di questa bottiglia. Questa bottiglia era stata scavata... Scusi Sacchi, ci racconti anche com'è fatta questa bottiglia, perché allora, in radio vogliamo capire bene. È bellissima, è una bottiglia da quasi un litro, di 75 cc un litro, di forma cilindrica, con un beccuccio superiore ed un'ansetta per mantenerla nella mano, quindi praticamente un'oliera con una manichetta nella parte apicale. È fatta di quale materiale? È di vetro verdino, bellissimo, originale. Sul questo vetro c'era un tappo tipo tappo di spumante di sughero messo su in età borbonica, perché vi stavo dicendo gli scavi sono sicuramente iniziati nel 1738 qui da Carlo di Borbone, il principe del Bef, qui a Ercolano, e successivamente tutto il materiale che era stato collezionato nel nostro cosiddetto gabinetto dei preziosi, perché alla Reggia di Portici, dove c'è il Dipartimento di Agraria, è stato il primo luogo dove sono stati collezionati nel 700 tutti i materiali scavati da Ercolano e da Pompei, soprattutto da Ercolano. E quindi questa bottiglia piena di questo liquido, di questo materiale ceroso biancastro, è stata poi trasferita nell'attuale sede, cioè nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, tra il 1805 e il 1828, abbiamo visto dagli studi dei registri, delle lettere, eccetera, dei registri dei cataloghi del MAN. E quindi è stato tenuto nei depositi, era già nota, era stata utilizzata dal Museo Archeologico negli anni scorsi questa bottiglia anche come copertina di mostre fatte all'estero, però avendo il Museo Archeologico di Napoli tanta ricchezza e non avendo spazi, nel momento in cui nel luglio 2018 il dottor Alberto Angela era venuto per realizzare poi un bellissimo programma e la collaborazione, eccetera, ha visto questa bottiglia e si è incuriosito. Noi già la stavamo analizzando, ci siamo scambiati informazioni divertentissime e alla fine siamo stati felicissimi poi di poter dimostrare e pubblicare su Nature che il lavoro dell'uomo aveva portato ad avere tra le mani un olio. Ecco Sacchi, ma è come il nostro? Ecco, questa è una bellissima domanda. Noi ci siamo studiamo da anni gli oli nostri della Campania, di italiani, di tutto il mondo. Allora, da dove proveniva questo olio che stava in questa bottiglia di Ercolano? Anzi, innanzitutto, era veramente un olio autentico o sono stati i Borboni che hanno riempito la bottiglia per farsi belli con i vari Già. Perché abbiamo fatto degli altri ritrovamenti dove abbiamo trovato dell'uva carbonizzata, dei vinaccioli su cui abbiamo fatto l'analisi del carbonio 14, scusate, l'abbiamo datato e abbiamo visto che in realtà erano del 700. Invece il nostro campione all'analisi del carbonio 14, al radiocarbonio, ci ha dato 1950 anni grosso modo. Quindi abbiamo fugato, diciamo che i borboni potessero aver manomesso il contenuto. E quindi è romano. È romano, è sicuramente autentico. E quindi l'altra domanda, che era quella che mi rivolgeva lei, era quella di da dove proveniva, che varietà era, che olio di oliva era, com'era? Era sicuramente fresco. Quando è avvenuta l'eruzione? Si dice oggi ad ottobre, le ultime teorie spostano nel periodo autunnale l'eruzione dalle ultime scritte ritrovate, quindi probabilmente era un olio freschissimo, un olio nuovo. come quelli che ho adesso io nel mio laboratorio sulla mia body. E quindi a questo punto abbiamo cercato di capire che cosa fosse. Stiamo facendo delle analisi sul DNA, perché anche l'olio mantiene tracce di DNA della pianta, con i colleghi di genetica del mio dipartimento, per cercare di risalire alla varietà. Noi abbiamo la banca dati attualmente di tutti gli oli italiani, campani, esistono banche dati anche in Spagna, insomma è possibile con le tecniche molecolari andare. Speriamo di farcela, ci stiamo continuando a divertire. Comunque possiamo, diciamo, paragonarlo ad un olio nostro, cioè veniva usato più o meno nello stesso modo. Assolutamente, no, ma noi abbiamo notizie da Plinio, da Catone, cioè abbiamo tutti, a parte gli affreschi, c'è un affresco che abbiamo che è esposto al Museo Archeologico di Napoli, dove si vede un pezzo di pane bellissimo a forma di margherita, dove con 8 spicchi, che era fatto apposta per essere porzionato automaticamente con le mani. Molto la bruschetta. È una bruschetta, sì. È più che una bruschetta, un panino all'olio. Bellissimo. Un panino all'olio. E c'è questa foto bellissima di una foto, anzi, ci sta questo affresco, con la bottiglia identica a quella che abbiamo studiato noi e il pezzo di pane identico a quello carbonizzato che potete trovare anche nelle foto che abbiamo poi pubblicato, perfetto, che sono state pubblicate. Quindi diciamo, pane olio più antico del mondo, e siamo felici di avere la bottiglia d'olio autentica con l'olio che si è conservato per 2000 anni. Sappiamo che, a proposito della qualità, i romani conoscevano molto bene l'onfacium, l'olium viride, ci sono tutte le classificazioni, sì, l'olio buono raccolto dall'albero, eccetera, eccetera, e quello invece dalle olive raccolte a terra che si dava agli schiavi e che veniva chiamato olium cibarium. Oggi fortunatamente non ci sono gli schiavi e stiamo lavorando tutti per migliorare la qualità degli oli italiani. Certo, Sacchi, voi fate ricerca anche su altri alimenti, ad esempio questa che potremmo definire come nuova disciplina, la gastronomia archeologica? Archeologica, assolutamente. C'è stata una mostra molto bella, curata proprio dai miei colleghi archeobotanici, sui tutti i reperti organici alimentari, olive, fichi, melograni, uva, oltre ai 1000 affreschi che rappresentano le piante coltivate in quel periodo. C'è stata una ricerca stupenda fatta dai miei colleghi botanici ed archeobotanici qui del Dipartimento di Agraria, dove stiamo caratterizzando anche altri materiali. Adesso sto studiando per esempio un liquido nerastro che era presente in una bottiglietta più piccola, quindi probabilmente sempre a base oleosa, ma un unguento, e si è mantenuto liquido. Questo è molto scuro. Poi stiamo studiando i fichi secchi, stiamo studiando il pane, stiamo studiando le olive. Chiaramente su questi materiali organici, questi tessuti vegetali, è più facile estrarre il DNA, e quindi stiamo facendo anche queste misure. Speriamo presto di avere altre notizie. Quindi c'è una mostra molto bella, scusate, che si chiama Res Rustica, sì, presente attualmente al Museo Archeologico Nazionale, dove tutte queste cose, compresa la nostra bottiglia, sono mostrate e vengono spiegati anche i flussi d'origine delle piante che già nel primo secolo d.C. erano presenti qui a Escolano Pompei, nell'antica Roma. Quindi molto interessante scoprire come alcune piante che noi immaginiamo siano state introdotte molto tempo dopo, invece già nel periodo romano erano presenti: il nespolo, il melograno, eccetera, eccetera. Certo. Stiamo scoprendo in conclusione com'era il menù diffuso a quell'epoca, insomma, e confrontarlo con quel che mangiamo oggi. Devo dire che il disastro di Pompei ed Ercolano fu indubbiamente un disastro per la popolazione, però devo dire che ci ha restituito delle informazioni e della conoscenza veramente inestimabile. Sì, certamente. È stato un miracolo quello di aver fotografato la vita così com'era. Io ogni volta che vado negli scavi di Ercolano, di Pompei, con i miei figli, con amici, mi emoziono sempre. La cosa più bella è che noi abbiamo immaginato, quando abbiamo analizzato il campione, la facoltà di agraria, la Reggia di Portici, è a 5 minuti a piedi dagli scavi di Ercolano. Quindi noi abbiamo immaginato Plinio o un altro pompeiano o ercolanese che arrivava a piedi nel nostro laboratorio portandoci questa bottiglietta, così come fanno normalmente i produttori e i consumatori da analizzare, che arrivano qui in questo periodo e poi dice: professore, potete vedere questo olio con me, se è buono, non è buono, l'ho comprato, l'ho raccolto. Grazie Sacchi, allora davvero un buonissimo lavoro. Grazie a voi, se vi trovate a passare per Ercolano e dintorni, certo, passate qui e vi faremo assaggiare un olio nuovo. Bravissimo. Non di 2000 anni, un olio appena prodotto. Grazie. Grazie, buon lavoro. A voi, grazie a voi. Beh, ci facevano, come dire, anche il pinzimonio. Sì, credo. No, strepitoso, strepitoso, queste scoperte che vengono fuori così, anche per caso, come ha raccontato lui, e poi davvero si scoprono delle caratteristiche della cucina, della gastronomia, già avanti Cristo. Così simile alle nostre. Va bene, grazie ascoltatrici e ascoltatori di averci seguito fin qui, noi ci sentiamo prestissimo per una nuova puntata di Darwin, tutte le altre puntate le trovate su www.radio24.it. Ciao! Ciao a tutti e a tutte! Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.